I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Essere ottimisti nella vita sicuramente aiuta, ma bisogna stare attenti a non esagerare con il cosiddetto ottimismo di maniera, così come il realismo non può essere confuso con l'atteggiamento ormai celebre del gufo. Questa piccola premessa era d'obbligo nel commentare i dati diffusi ieri dall'Istat sull'andamento della nostra industria. Sia il fatturato che gli ordinativi industriali hanno infatti subito un calo, per quello che riguarda gli ordinativi anche significativo, del 2% rispetto ad agosto e comunque di quasi un punto percentuale rispetto a settembre del 2014. In sostanza, a parte il settore automobilistico, tutti gli altri settori industriali di questo paese a settembre sono rimasti al palo o hanno registrato anche un calo. Certo, l'Istat conferma che invece la ripresa è in atto sui consumi, più 1,5%, e in effetti il rallentamento o calo della nostra industria è dovuto soprattutto al rallentamento o calo della domanda estera. Ma al di là di questi ragionamenti è innegabile quanto ricordava ieri anche il presidente di Confindustria, ossia che bisogna non solo annunciare le riforme interne ma anche realizzarle completamente. Da qui l'invito con cui abbiamo iniziato questi 100 secondi. Il pessimismo è sicuramente un brutto atteggiamento, ma anche il governo deve stare attento a non eccedere nell'ottimismo, perché si corre il rischio di generare false illusioni. La ripresa è in atto, ma agganciarla completamente e renderla ancora più strutturale è una strada ancora da costruire e non sarà facile né scontata. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Mentre la classe politica europea, gli Stati Uniti, la Russia e tutte le parti coinvolte in questa vicenda stanno cercando di trovare una linea comune per dare una risposta alla sfida dei terroristi dell'ISIS e degli scenari di Siria, beh, insomma, i primi venti di guerra sul fronte commerciale hanno già cominciato a soffiare forte. Come molti temevano, la Russia ha cominciato a colpire la Turchia con delle sanzioni commerciali, così come tra l'altro era avvenuto nei confronti della stessa Russia quando esplose l'anno scorso la tensione in Ucraina. Il commercio, come si sa, è il primo colpo di cannone in quelle che sono le relazioni deteriorate dei paesi europei, americani o anche dell'est o dell'Asia o della Russia. Che cosa è successo in questo caso? Il primo colpo è stato sparato sui prodotti alimentari. La Russia ha sostanzialmente bloccato il 15% delle importazioni di prodotti alimentari della Turchia che, come sappiamo, nel complesso rappresentano quasi 44 miliardi di dollari di interscambio commerciale. Una cifra molto sostenuta e una cifra soprattutto che desta nuove preoccupazioni sotto il profilo della tenuta economica europea. Tant'è vero che proprio oggi anche l'Unione Europea ha lanciato un grido d'allarme sui rischi di una frenata economica imprevista in questa già debole ripresa europea. Il prodotto interno lordo, cioè la ricchezza prodotta dall'Europa, l'anno prossimo dovrebbe crescere l'1,8%, beh, oggi si comincia a dire che anche questo potrebbe essere un obiettivo non raggiungibile nel caso in cui la fiducia dei consumatori, la fiducia delle imprese e gli investimenti dovessero fermarsi o cadere proprio per effetto delle incertezze legate alla guerra. Comunque sia, una cosa è chiara, questa tensione va risolta al più presto, non soltanto per il profilo commerciale, ovviamente, ma soprattutto perché senza una stabilizzazione di quell'area, sicuramente le tensioni sono destinate a ripetersi, se non in Siria, in altre parti del mondo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.